sabato 25 maggio dalle 9:30 all'1:30 presso il cinema Perla nel quartiere San Donato facciamo il convegno Il Don Bosco fa scuola, dalle bestie al futuro di Bologna. Il Don Bosco fa scuola è un titolo che abbiamo scelto perché ci sembra che spieghi molto bene come un comitato di cittadini stia riuscendo a risvegliare l'attenzione in città per i temi ambientali, i temi della partecipazione, i temi riguardano il futuro di Bologna, perché qui si vuole distruggere un parco, costruire una scuola che già esiste, e sembra un po' davvero il modello della Bologna del futuro secondo questa amministrazione, che qui a San Donato prevede poi di proiettare verso nord, verso la periferia estrema della città, nuovi milioni di metri di quadrati di cemento e un sacco di costruzioni di cui la città probabilmente non ha bisogno. Noi però presentiamo al convegno due questioni: una, quella della tutela del parco, e lo facciamo attraverso le relazioni di Vittorio Marletto, che è l'ex responsabile di ARPA per l'osservatorio clima, e che ci spiegherà come per contrastare il cambiamento climatico bisogna fare esattamente l'opposto di quello che l'amministrazione sta facendo. E questo della nuova scuola nel parco Don Bosco è davvero un progetto nonsense. Ci sarà Paolo Pileri, che è un urbanista del Politecnico di Milano, che spiegherà l'importanza del suolo e del non consumare più suolo, perché il disastro che stiamo vivendo, ricordiamo che siamo a un anno dall'alluvione, che ha molto a che fare col consumo di suolo e le cementificazioni dei territori, insomma, non consentono di continuare su questa strada. Ci sarà poi Daniele Zanzi, un agronomo di Varese, ma che è riconosciuto a livello internazionale, è uno dei massimi esperti di alberi e delle capacità degli alberi di contrastare appunto gli effetti del cambiamento climatico. Ci sono poi Fausto Bonafede, che è un botanico del WWF, e Mario Marcus, l'avvocato che ha curato il nostro ricorso presso il giudice sui danni alla salute che questo progetto comporterà per i cittadini. La seconda parte della mattinata invece è dedicata alla scuola, e spiegheremo, tra l'altro ci sarà Wuming 2, che racconterà un po' il progetto del comune analizzando tutti i documenti che ci hanno dato, e insieme a lui Nino Pizzimenti di Lega Ambiente spiegheranno appunto come le scuole possono essere ristrutturate o rigenerate, come vogliamo dire, le attuali scuole, senza bisogno di avere un nuovo edificio, perché proprio perché il comune invece sostiene che non si può fare nulla se non abbattere le vecchie scuole, nonostante tutte le agenzie internazionali, quella dell'ONU, quella europea, la direttiva europea parli, l'ultima direttiva europea proprio dell'aprile 2024, parli di necessità di rigenerare, ristrutturare gli edifici esistenti. Infine chiudiamo col tema sempre della partecipazione, della tradizioni d'avanguardia della pedagogia bolognese, di cui le Besta sono un grande esempio, con Stefano Magagni, che è un ex architetto del comune, proprio che si occupava di edilizia scolastica, e con Federica Lucchesini e Fulvio Antonelli, che sono della redazione degli Asini, un'importante rivista pedagogica e di critica sociale. Con questo noi invitiamo tutti i cittadini di San Donato, ma tutta la città, la gente che pensa, che sta dando vita ai nuovi comitati, a venire a sentire, a vedere, perché è importante resistere a questo assurdo, devastante, dannoso, costoso, antieconomico progetto del comune. Noi presenteremo un'ipotesi alternativa che consente di continuare a tenere il parco, scriviamo che salvare il parco è necessario e che rigenerare la scuola attuale è possibile.